Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, ben ritrovati alla nostra nuova puntata, ancora una volta dedicata al tema che vi piace moltissimo. I mutui. Pensate che notizia nuova abbiamo letto nei giorni scorsi. I mutui in Italia sono i più cari del resto d'Europa. Nel corso è nuova, ovviamente, una, come dire, considerazione che ha del sarcasmo dietro, perché sono da tanti anni che lo diciamo e che da tanti anni altre indagini appunto lo denunciano. Nel corso di un'audizione alla Camera dei Deputati sul tema del credito al consumo, la questione degli oneri che gravano sui mutui distribuiti in Italia è stata sollevata però in questa circostanza da una fonte tutt'altro che irrilevante, vale a dire la Banca d'Italia, per bocca del capo del servizio Supervisione Intermediari Specializzati, Roberto Rinaldi, che oltre a denunciare questo ha lanciato anche un altro avvertimento. Visto che in questo periodo la gran parte dei mutui sottoscritti è, di nuovo, come è già successo qualche anno fa, a tasso variabile, circa il 70% delle nuove erogazioni nel terzo trimestre di quest'anno, le banche devono sforzarsi di fornire ai clienti un'informativa precontrattuale assolutamente chiara sui rischi connessi alla stipula di questo tipo di mutuo, che adesso è sì estremamente vantaggioso, ma nel lungo periodo potrebbe tornare a generare qualche tensione nei bilanci familiari. E allora noi di questo parliamo questa mattina, ma torneremo, anche se non volevamo farlo, ci dobbiamo ritornare, sulla questione della moratoria dei mutui, cioè quella che le banche dovrebbero permettere a partire da gennaio-febbraio prossimi a quelle famiglie che non sono nella condizione adesso di onorare questo impegno finanziario, perché a quanto pare, secondo quanto è emerso ieri dall'esecutivo ABI che si è svolto a Milano, alcuni banchieri vorrebbero un po' più di tempo per pensare a come applicare appunto questa modalità, questa moratoria. Ne parleremo tra qualche istante. Naturalmente la COP di ospiti è assolutamente la nostra preferita su questo argomento, Roberto Anetta, responsabile marketing di Mutui Online, che è il più grande broker attivo nella distribuzione di mutui tramite internet e telefono. Roberto, bentornato. Grazie, ben ritrovato a tutti. Mutui e prestiti, naturalmente, quindi anche credito al consumo, e Maximilian Cellino, il Sole 24 Ore Plus 24. Maximilian, tra l'altro, in maniera del tutto casuale, generalmente sono informata sulla vostra storia di copertina, apprendo oggi che quella che state preparando per sabato è proprio dedicata al nostro argomento. Beh, non è casuale, parliamo di mutui oggi e sabato Plus dedicherà appunto la copertina ai mutui, alle problematiche che possono sorgere quando si va a scegliere un mutuo, specialmente un mutuo a tasso variabile in questo momento. E infatti 800 24 00 24, cominciate allora a porci i vostri interrogativi su questo argomento. Se volete intervenire in diretta potete utilizzare il numero verde, se invece volete scriverci potete usare il 349 238 6666. Giornatina in borsa negativa, però con delle prestazioni molto differenziate, perché abbiamo Londra che perde lo 0,14%, Francoforte perde lo 0,37%, Parigi perde mezzo punto e Milano perde un punto tondo. Milano, come al solito, amplifica nel bene o nel male le prestazioni delle altre borse europee. E infatti oggi è proprio il settore che compone, come dire, che rappresenta ampiamente il tiro di Piazza Affari, cioè quello finanziario, a scendere, ma non solo, anche le costruzioni sono in difficoltà. Impregilo infatti perde 3,5 punti in questo momento, CIR meno 2,67%, abbiamo un calo di Mediolanum del 2,43%, Pirelli meno 2,38%, meno 2,33% per STM, meno 2,25% per il Banco Popolare, meno 2% per Italcementi, Buzzi Unicem, per Intesa San Paolo e la Popolare di Milano. Va male anche Unicredit, meno 1,84%, perché le banche vanno male stamattina, perché c'è il via libera, questo consistente aumento di capitale di Mitsubishi Financial, colosso bancario giapponese, ma evidentemente quando c'è qualche tensione sul credito, anche se arriva dall'altra parte dell'emisfero, evidentemente un po' tutte le banche su scala mondiale ne risentono, quindi ancora richiesta di denaro al mercato da parte di un colosso giapponese e quindi scendono i titoli del settore bancario anche in Europa. Euro su dollaro 1,4865, abbiamo un recupero del dollaro sulla moneta unica europea questa mattina, però insomma la tendenza di fondo è ancora sfavorevole al biglietto verde, tanto che ieri appunto questa tendenza ha provocato l'ennesima fiammata sull'oro a $1,150 l'oncia. Petrolio a $79 al barile sia a New York che a Londra. Noi lasciamo la borsa e andiamo ancora una volta al tema mutui e sentiamo un po' quali sono le ultime novità. Attenzione al mutuo a tasso variabile. L'avvertimento è giunto nei giorni scorsi dalla Banca d'Italia, secondo la quale la rata del mutuo per 230.000 famiglie italiane ha raggiunto una soglia critica per l'equilibrio del bilancio familiare. Se la crisi finanziaria, tra costo del denaro sempre più basso e un Euribor sceso ai minimi storici, ha spinto il 70% delle famiglie, nei primi tre mesi del 2009, ad optare per la rata indicizzata, per via nazionale è ora di iniziare a considerare anche il rovescio della medaglia. Cosa accadrà nei prossimi mesi? La paura principale è che a breve si ripropongano i rischi assunti da chi aveva scelto la rata variabile nel 2004-2005, inconsapevole del forte rialzo dei tassi Euribor negli anni successivi. Ecco perché oggi è essenziale che le banche e gli intermediari forniscano alla clientela una corretta analisi dei rischi connessi alla stipula dei contratti, il cui onere finanziario può lievitare significativamente in presenza di aumenti dei tassi di interesse. Ma non è tutto. Nel mirino di Banca Italia sono finiti anche i mutui a tasso fisso. A scoraggiarne la sottoscrizione contribuisce lo squilibrio che c'è rispetto all'area euro, divergenza che risulta invece minima sui tassi variabili. Se sul variabile l'Italia si colloca attorno al 3% contro il 2,5% circa del resto di Eurolandia, per i mutui a tasso fisso il nostro paese viaggia tra il 4,5 e il 5%, contro una media europea inferiore al 4%. Peraltro ieri è stato diffuso anche il nuovo bollettino mensile dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, contestualmente appunto ai lavori dell'esecutivo a Milano, e si è fornito un altro dato. I mutui per l'abitazione comunque continuano a correre. Il problema adesso, l'abbiamo ribadito più volte, è lo stallo del credito alle imprese, ma per quello che riguarda il credito alle famiglie, se le condizioni ovviamente di garanzie sufficienti ci sono, i mutui continuano ad essere distribuiti, magari in percentuale un po' più ridotta rispetto al passato in rapporto al valore dell'abitazione, e però ancora c'è richiesta, per fortuna. Roberto Anedda: non c'entra con l'argomento, dice un ascoltatore, ma se può ringrazi Mutui Online per un piccolo finanziamento che ho ottenuto tramite loro. La stessa finanziaria, attraverso di voi che evidentemente avevo interpellato prima, mi ha fatto 4 punti in meno rispetto al precedente preventivo. Ecco a cosa servite. Così grazie, almeno l'abbiamo anche spiegato. Niente di più chiaro, non è uno ovviamente pagato da nessuno. Né pagato né un amico che ha mandato. Si firma Deme, sarà Demetrio o qualcosa del genere, lo salutiamo. Effettivamente poi noi, insomma, clienti ne abbiamo centinaia al giorno. Però soprattutto poi sui prestiti, perché data la differenza sul tasso, non può essere che un prestito personale, come magari avremo modo di dire in trasmissione, la differenza anche delle rilevazioni che facciamo noi rispetto alla media di mercato di prezzi, come quella che la stessa ABI ha dichiarato in questi giorni, è veramente di diversi punti percentuali. E quindi il risparmio può essere veramente molto corposo. No, questo magari che possa servire anche a tutti coloro che hanno ancora una forte resistenza ad utilizzare il canale online per farsi fare preventivi che non riguardano solamente prestiti mutui ma anche le assicurazioni per l'auto e tanto altro, e magari avremo modo di parlarne nella puntata. Un commento invece rispetto, adesso, a parte al congelamento delle rate e al congelamento della moratoria, poi in realtà non è esattamente così, poi spiegheremo meglio anche questo, volevo però un commento rispetto alla posizione espressa dalla Banca d'Italia su rischi connessi alla sottoscrizione dei mutui a tasso variabile e sul fatto che i mutui italiani sono più cari del resto d'Europa, cose che sapevamo già, e però insomma Banca Italia ha voluto esprimere questa posizione con grande chiarezza a livello istituzionale, come a dire siete tutti quanti avvisati, quindi forse è ora che le cose un po' cambino. La posizione soprattutto sui rischi connessi al mutuo a tasso variabile è assolutamente condivisibile, non mi pare neanche il caso di tornare a sottolinearlo, però Anedda, come valutiamo questa maggiore tendenza alla raccomandazione generale di comportamento alle banche? No, certamente per quanto riguarda il variabile c'è la memoria di quello che appena pochi anni fa si è verificato. Un anno fa. Esatto, e negli anni precedenti, proprio tra il 2004 e il 2006, quando i tassi erano ai minimi relativi, perché adesso i minimi sono diventati ancora più bassi e quindi i tassi sono ancora più convenienti di allora, ci fu una corsa al variabile che tra l'utilizzo dei variabili veri e propri, i tassi misti, che ovviamente partivano con alcuni anni a variabile, copriva circa quasi il 90% dei mutui. Adesso ci siamo assestati intorno al 70%, uno perché prodotti a tasso misto al momento non se ne fanno tanti, o comunque non con periodi a tasso variabile molto lunghi, e quindi questo rischio è minore. In più c'è da dire che rispetto ad allora hanno preso più piede tutta una serie di prodotti che, pur essendo a tasso variabile, presentano delle tutele maggiori. Garanzie accessorie, chiamiamole. Esatto, garanzie accessorie, come ad esempio i cap rate, di cui abbiamo parlato anche altre volte in trasmissione, cioè un tetto massimo prefissato per l'eventuale aumento del tasso, di modo che se anche il tasso crescerà nel tempo a fronte dell'aumento del costo del denaro, ci sarà comunque un limite che eviterà che il costo del mutuo e quindi anche la rata vada fuori controllo. Dai nostri dati, almeno un terzo dei mutui a tasso variabile erogati quest'anno sono relative a operazioni di questo tipo, e quindi anche in questo 70% c'è in realtà una componente non sono dei variabili di puri. Rischio minore. Quindi sicuramente il mercato, a partire dalle banche, che sfruttano anche questo momento di tassi bassi per offrire prodotti sicuramente appetibili, ma anche costruiti meglio in modo che siano più tutelanti per il cliente, ma per la banca stessa alla fine, perché si creano meno problemi di potenziali al cliente in futuro. Però è giustissima la raccomandazione agli istituti, io aggiungerei anche ai clienti, di considerare che il momento di tassi attuale è assolutamente, ripetiamolo ancora una volta, anche se l'abbiamo detto più volte in questi mesi, eccezionale, straordinario. Quindi, e non del tutto in termini positivi, insomma, no, quando esatto, utilizziamo questi è positivo termini. Per chi deve fare un mutuo e trova la possibilità di avere accesso a condizioni che saranno negli anni futuri sicuramente irripetibili, però se punta a un tasso variabile, tutelato o meno, deve considerare che sicuramente negli anni prossimi, difficile dire con quale cadenza, in quale tempistica, ma entro alcuni anni i tassi saranno sicuramente più alti rispetto ad adesso, e in futuro potrebbero essere più alti anche di diversi punti percentuali, e quindi l'incremento della rata a cui faceva accenno anche la persona dell'ABI è insomma fondata, cioè ci possono essere variazioni della rata che arrivano anche al 30 o 40% del proprio reddito. Stavo problematiche con la gola questa mattina. Mi rimangono 30 secondi prima di dare la linea alla regia per la prima pausa, però Maximilian, magari volevo già coinvolgere anche te rispetto a tutte queste considerazioni che abbiamo fatto questa mattina. Non è che si scopre l'acqua calda, però insomma sempre meglio esprimere una raccomandazione in più che una in meno. Sì, l'importante sarà come poi alla fine allo sportello si avvertirà il cliente dei rischi con sia un mutuo a tasso variabile. La Banca d'Italia sotto questo aspetto in materia di trasparenza ha fatto dei passi in avanti notevoli ultimamente, esortando le banche a essere ancora più trasparenti quando si va a contrarre soprattutto un mutuo, a dare una consulenza specifica a seconda della persona che si ha di fronte. A mio parere sarebbe probabilmente interessante anche fare degli esempi pratici, cioè vedere quanto effettivamente poi ti andrà a aumentare la rata. Quindi non so, allegare alla famosa informativa precontrattuale, per esempio, proprio delle simulazioni che diano un'indicazione di massima, esatto, su quello che potrebbe variare la rata. Un piccolo esempio: un mutuo da 100.000 euro a 20 anni, oggi la rata mensile potrebbe essere anche inferiore ai 500 euro. 492, quello che è, insomma. Ma con un Euribor che potrebbe arrivare, esatto, per esempio, quella a 3 mesi a livelli di un anno fa. Se torna a un livello di un anno fa, fra 2 anni la rata schizza subito a 850 euro. Ecco. Insomma, è un rialzo del 60-70%. Mm-hmm. E di questo deve essere consapevole. Se si fa vedere al cliente un numero, forse già gli si dà un'idea maggiore. Il deterrente può essere notevole. Che può avvenire, insomma, meglio che una semplice... Mm-hmm. Moral suasion, che va molto di moda a dire, una deduzione che va molto di moda, insomma, dirgli guarda attenzione, una cosa è dirgli attenzione, una cosa è fargli vedere con i numeri cosa potrebbe accadere. Benissimo, e allora mutui questa mattina alla luce delle considerazioni fatte da un alto funzionario della Banca d'Italia alla Camera dei Deputati sui rischi connessi alla sottoscrizione in questo momento di mutui a tasso variabile. Attenzione, perché se le banche non documentano bene il tipo di investimento, nel lungo periodo le famiglie possono ritrovarsi di nuovo nella condizione in cui si sono trovate in tante un anno fa, un anno e mezzo fa. E poi c'è anche la possibilità che la moratoria dei mutui, che dovrebbe scattare tra gennaio e febbraio, possa essere procrastinata, rinviata, secondo le perplessità espresse da alcuni banchieri italiani. Insomma, tanta carne al fuoco questa mattina e tante domande degli ascoltatori. Cominciamo con Enrico da Firenze, che saluta. Enrico, benvenuto. Innanzitutto auguri per la gola. La ringrazio. Dunque, nei pochi secondi di spazio che BNL si è ritagliata di pubblicità, pochissimi, sembra di poter capire, sì, può fare il nome della banca, no? Perché ma ci mancherebbe. Qual è la formula? Non è mica una parolaccia. No, questo spero di no, almeno. E credo di aver capito che si parla di una formula che è quella che racconta di un mutuo che può partire con la caratteristica di un mutuo a tasso fisso, cioè a tasso variabile, scusate, per poi proseguire in un secondo momento con le caratteristiche del tasso fisso, quindi neanche dovesse salire più che tanto in sostanza. Mm. E cercavo di capire un tantino meglio quali erano le caratteristiche, un tantino più nel dettaglio, sempre che abbia capito bene qualcosa io, naturalmente. Allora, sentiamo un po' intanto. Roberto Anedda, distribuite il mutuo di BNL, questa nuova offerta commerciale che si chiama 2 in 1, e Enrico da Firenze era l'ascoltatore. Roberto. Perfetto, sì sì, no, Enrico ha capito bene in realtà qual è la struttura di questo mutuo, che è un mutuo che anche noi di mutui online offriamo, tra i vari mutui che possono essere richiesti, e praticamente consiste effettivamente in un periodo che è di 2 anni, quindi 24 mesi, 24 rate, a tasso variabile, e quindi sfruttando in buona parte il momento attuale, dicevamo, di tassi ai minimi, e per quelle che sono anche, insomma, le prime valutazioni della BCE recente, almeno per un anno avremo dei tassi veramente a livelli molto bassi, per cui anche tra 2 anni non è ben difficile che possano salire più di tanto. Dopodiché il mutuo diventa a tasso fisso, con un tasso fisso che è già fissato, scusate il gioco di parole, adesso, quindi si conosce già qual è l'importo, il livello di questo tasso, e indicativamente varia leggermente a seconda di alcune durate, ma siamo intorno al 5,51, 5,2%. Quindi tutto sommato è un mutuo che ci dà già la prospettiva di tutto quello che ci potrebbe accadere. Esatto, esatto. Nel senso che rispetto a un fisso puro e semplice che partisse fin da adesso con un determinato tasso, consente di approfittare per buona parte di questi 2 anni di variabile di tassi certamente più basse del fisso futuro, e solo dopo, dai 2 anni in poi, per sicurezza, passare un tasso che poi non cambia più, e quindi la rata stessa sarà poi sotto controllo perché sarà sempre la stessa. In questo modo il cliente può pianificare meglio, anche nel lungo termine, le proprie spese per il mutuo, e soprattutto, ripeto, un tasso fisso che è comunque molto appetibile perché è allineato a quelle che sono bene o male le migliori offerte del momento. Roberto, abbiamo appreso in questi anni che le banche sicuramente non è che fanno niente per niente, non c'è bisogno che lo dica io questo. Mi chiedo, questa elasticità di comportamento una banca quanto la possa far pagare, perché poi tutte le garanzie, anche quelle più convincenti, perché ce ne sono poi alcune anche che non funzionano esattamente come avevamo pensato, avevamo previsto, quanto costa insomma questa rosa di garanzie offerte mediamente? Adesso non dico il mutuo in questione. Sì, però no, diciamo, poi sul mercato ci sono offerte molto diverse tra loro. Abbiamo accennato prima ai variabili con il cap. Lo stesso mutuo a tasso fisso in realtà rappresenta un costo maggiore per la banca, perché stabilisce un costo e quindi una sua remunerazione futura nel tempo, che prescinderà da quelle che saranno le fluttuazioni del costo del denaro. Ognuna di queste operazioni è un costo per la banca, ma a questo punto interviene, soprattutto in una situazione come quella attuale, la valutazione, diciamo, commerciale e anche di bilancio del singolo istituto, il quale può decidere di, non dico scommettere, ma puntare in modo più aggressivo sul mutuo come prodotto per acquisire clientela. Poi se la banca è brava, ovviamente cercherà in futuro di convincere il cliente a utilizzare anche altri prodotti bancari, quindi il guadagno non è fatto sulla singola operazione ma sul totale che nel tempo la banca potrà offrire al cliente e quali servizi utilizzerà. Il fatto poi che in questo momento i tassi siano molto bassi permette di offrire mutui, diciamo anche prima, più evoluti, con garanzie maggiori, a un costo anche per la banca inferiore, e quindi, per quello dicevo prima, si tratta di un momento anche irripetibile. Non automaticamente dietro un'offerta allettante o conveniente c'è dietro qualche altro costo nascosto, qualche altra cosa che poi il cliente sconterà. È un momento particolare, quindi ci sono banche che stanno ricominciando a scommettere sui mutui. Allo stesso tempo, come anche altre volte abbiamo detto da questi microfoni, non tutte lo stanno facendo. Ci sono istituti anche molto grossi che in questo momento sono un po' fuori dal mercato, offrono condizioni non particolarmente convenienti rispetto anche alla media di mercato, e quindi è tanto più importante verificare di volta in volta quali siano le offerte migliori e confrontarle per capire dove andare. Ce n'è anche qualcuna particolarmente grande che, se tu gli vai a dire guarda, io ho trovato un'offerta migliore e voglio fare la portabilità del mutuo, non cerca in alcun modo di trattenerti e ti dice arrivederci, grazie, sì, senza alcun problema. È proprio sintomatico di come sia adesso una situazione di valutazione interna della singola banca. Allora, dunque, ci sono 3 ascoltatori pronti, però io volevo approfittare, prima di sentire loro, prima di sentire Angela, Sergio ed Ettore, di un messaggio di un ascoltatore che ci racconta che è un insegnante disoccupato da settembre, ha un contratto mutuo per acquisto prima casa a tasso fisso dal marzo 2008 al 5,5% e ora naturalmente riesco a stento a pagare la rata mensile. È Luigi. Maximilian, l'ascoltatore ci chiede: posso sospenderlo? Cosa mi succede se non lo pago più, oppure pago in ritardo? Allora, io qui intanto bisognerebbe capire anche di che banca stiamo parlando, perché magari è già al proprio interno, nel proprio contesto, un piano di sospensione delle rate per i propri clienti in difficoltà. Qualora non ne avesse uno, magari l'ascoltatore poteva approfittare della moratoria in arrivo, iniziativa appunto congiunta da tutte le banche italiane, poi naturalmente con le modalità individuali che verranno fissate, e nel frattempo però questa persona è in difficoltà in questo momento. Che cosa gli rispondiamo, Maximilian? Diciamo che al di là del fatto che la banca possa già proporre, la prima cosa da fare è andare alla banca e far presente la propria situazione, perché la banca, lo ripetiamo ancora una volta, non ha alcun interesse a creare dei problemi a chi deve restituire i soldi, anzi la cosa migliore della banca è che le persone riescano a pagare regolarmente la propria rata del mutuo. Dopodiché, se non si riesce a trovare un accordo, la banca potrebbe già avere dei piani di sospensione delle rate per chi ha perso il lavoro, per cassa integrati, altrimenti occorre attendere gennaio, febbraio, vedremo se non slitterà la misura varata dall'ABI. Ora il caso dovrebbe essere uno proprio di quelli specifici che rientra all'interno della moratoria. Della moratoria. Se non riesce a pagare le rate, allora, da un certo punto di vista non c'è da preoccuparsi, perché la moratoria sarà accessibile anche a chi è indietro con i pagamenti, basta che non sia indietro da troppo tempo e che non sia appunto non siano decaduti i benefici. In realtà poi cosa succede se non paga le rate? Vengono calcolati degli interessi ulteriori, sono gli interessi di mora oltre a quelli normali, però si vanno a sommare a quelli normali. Però ecco, se tutto va come l'ABI dice che debba andare, a partire da fine mese, dai primi di dicembre, saranno disponibili questi moduli che prima le persone erano gli ultimi di novembre dovevano essere pronti, ecco già. Comunque può darsi siano anche pronti gli ultimi che ce li porti Babbo Natale. Saranno disponibili questi moduli che le persone in difficoltà dovranno compilare, perché spetta anche a loro l'onere di provare che sono in una delle situazioni previste dall'ABI, cioè che hanno perso il lavoro, che sono in cassa integrazione. Dopodiché la banca lo dovranno presentare in banca a partire dal 1 gennaio. La banca farà, si spera, rapidamente le proprie indagini per vedere che le persone abbiano effettivamente diritto, e già a partire dalla rata contabilizzata a gennaio, quindi a partire da febbraio se è mensile, o aprile se è trimestrale, dovrebbe avvenire lo stop delle rate. Gli ultimi 10 minuti di tempo dedicati solamente ai nostri ascoltatori. Angela da Milano all'800240024, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo sapere un'informazione. Mia figlia vuole andare a vivere per conto proprio, no? Volevo sapere le agevolazioni che ci sono quanto riguarda per il mutuo. Volevo sapere. E poi conviene farlo variabile o fisso? Angela, allora lei ci apre, come dire, una parentesi. Agevolazioni di che tipo, Angela? Per i giovani, ha 26 anni. Perfetto, quindi intanto lavora? Lavoro a termine oppure un contratto a tempo indeterminato? Parola che no, in questo determinato. Determinato, è stato rinnovato più volte. Indeterminato. Ah, beh, quindi insomma. Sì. Allora già mi pare che partiamo bene, Roberto Anedda. No, certamente il fatto del contratto a tempo indeterminato, abbiamo sempre detto, anche se magari ingiustamente per certi aspetti, è una garanzia maggiore per la banca, quindi la figlia di Angela ha sicuramente accesso a tutto il range di offerte delle diverse banche. Il tema problemi. È capire quanto guadagni, esatto, e quindi che rata può sostenere. Mediamente la banca valuta il mutuo che può essere concesso sulla base del reddito, e sul reddito netto mensile applica una determinata percentuale, che è intorno al 30%, ma su redditi bassi potrebbe essere anche un pochino più ridotta, e quindi sulla rata effettiva si fa il calcolo con il tasso per i diversi prodotti disponibili e si vede quale sarebbe il capitale ottenibile. Quindi quello che poi Angela e la figlia dovranno verificare è il mutuo che può essere ottenuto, se è sufficiente ad acquistare l'immobile individuato. Infatti, perché tra l'altro ho trovato anche questo suggerimento da parte di qualche tuo collega che opera nel settore bancario, nel settore retail: prima di andare a vedere la casa dei vostri sogni e partire da lì per andarvi a fare un preventivo di mutuo, andate prima in banca a capire quanto siete nelle condizioni di poter ottenere, poi magari da quel tipo, diciamo, di budget disponibile potete andare a verificare qual è l'offerta immobiliare che può fare al caso vostro, se può fare il procedimento inverso. Lo stesso che consigliamo noi è che spesso facciamo proprio tramite i nostri consulenti con chi ci contatta, proprio perché a volte capire prima come la banca ragiona e il fatto soprattutto di capire, parlando con chi lavora con tante banche diverse, come magari in modo diverso le singole banche valutano uno stesso cliente, è importante per poi indirizzarsi anche sull'acquisto giusto e anche per scegliere il mutuo adeguato. Angela poi chiedeva in questo momento fisso o variabile. Nella realtà, lo ripetiamo così come abbiamo detto all'inizio, questo è un momento ottimo per fare un mutuo sia per i fissi che per i variabili. Dipende quindi un po' da una valutazione che andrebbe fatta con il consulente, di quello che è il reddito, di quella che è l'aspettativa, certo, e le preferenze anche in termini di tranquillità nel pagamento, ma fortunatamente anche per chi volesse approfittare del variabile, quindi a tassi più bassi, dicevamo, ci sono diverse banche che offrono dei prodotti interessanti e che permettono anche di tutelarsi in parte da quello che potrebbe essere l'incertezza futura nell'aumento della rata. Allora, Maximilian, naturalmente la domanda di Sergio da Livorno non posso che rivolgerla a te, perché insomma fra toscani vi intendete. Sergio, benvenuto, ma soprattutto perché Sergio vuole fare una domanda su un tema di cui ha scritto esplicitamente Maximilian sul Sole 24 Ore. Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Sergio da Livorno. Io ho surrogato il mio mutuo, pagavo un fisso al 6% e sono andato, ho sottoscritto il prodotto del Monte dei Paschi con K al 5,5. Sì. Che addirittura sembra sia stato indicato come il miglior mutuo degli ultimi mesi sulla piazza, circolante sulla piazza. Sì. Volevo sapere, visto che ho letto l'articolo sul Sole 24 sì. Ore, in cosa si concretizzava lo ius variandi, cioè sì. la possibilità delle banche di modificare le proprie condizioni. Cioè, questo in teoria succede sempre per qualsiasi tipo di mutuo, e quali sono le situazioni concrete in cui si può verificare? Benissimo Sergio, allora visto che già a Maximilian questo articolo ha provocato qualche problema, stamattina giriamo il coltello nella piaga e così, No, non ha provocato problemi, tra l'altro ha sollevato numerose curiosità. Ha sollevato molte curiosità da parte, giustamente, da parte dei lettori, tra l'altro è apparso proprio su Plus 24 due settimane fa. Allora, intanto chiariamo cos'è lo ius variandi, perché qua lo chiedono molti ascoltatori. È una facoltà che si riserva alla banca in generale di modificare le condizioni economiche applicate ai contratti. Questo vale per i mutui e anche... Valeva per i conti correnti, esatto, quando si modificavano le condizioni, e noi lo scoprivamo, secondo loro, leggendo la Gazzetta Ufficiale e ovviamente senza avere nessuna comunicazione da parte... Qual è l'iter? La banca deve inviare una proposta di modifica unilaterale del contratto alla persona, che ha poi dopo, con un preavviso minimo di 30 giorni, che ha poi dopo successivamente, mi sembra, 60 giorni per aderire, insomma, per accettare il cambiamento, oppure per stracciare sostanzialmente il contratto. Ora, questo è molto semplice quando si parla di un conto corrente, uno se lo va a fare in un'altra banca. Quando si tratta di un mutuo è praticamente impossibile. Per quanto sia più facile del passato. Non solo perché spostarlo, perché stracciare un contratto di mutuo significa che la persona che ha preso a prestito i soldi da qui a domani deve rendere i soldi, il capitale residuo, e questo ovviamente non è facile. E questo lo sottolineo perché c'è molta discussione su questa cosa che si chiama ius variandi, se questa clausola sia effettivamente applicabile ai contratti di mutui. Cioè, ma perché è stato sollevato per questo mutuo che ha indicato il nostro ascoltatore, allora, di Livorno? Poi, perché loro lo hanno definito in maniera molto chiara. Allora, qui mi preme non fare allarmismo. Questo è un tipo di clausola che esiste nella gran parte dei mutui italiani e riguarda, secondo quanto ha detto Monte dei Paschi, hanno sostanzialmente confermato che questa clausola riguarda condizioni tipo le spese accessorie e non può riguardare in nessun modo i tassi. Ora, questo tipo di considerazione me l'ha confermata anche stamattina un notaio con cui parlavo, mi serve per la storia di copertina di Plus di sabato, il notaio De Stefano del Consiglio Notarile di Milano. È il nostro ospite frequentissimo. Esatto, mi ha confermato che è prassi giurisprudenziale proprio confermata che questo tipo di regola di ius variandi valga esclusivamente per le condizioni economiche, che so io, le spese accessorie, l'incasso della rata, e non tanto né per i tassi né per lo spread. Io ho fatto notare che qualche banca in passato, negli ultimi mesi, ha utilizzato proprio lo ius variandi per inserire il floor, cioè il tasso minimo al di sotto del quale non si può andare. Il notaio ha detto che questa è una situazione un po' che potrebbe, anche molto oltre il limite, potrebbe essere anche impugnata. Ora, Sergio, cosa diciamo? Sul mutuo di Monte dei Paschi, sia tranquillo, e Montepaschi, interpellata da un mio collega, ha detto che questo riguarda soltanto quel tipo di spese accessorie. Volendo allargare il discorso complessivo alla Ius Variandi, ci sono molte banche, e questo me l'ha confermato il notaio De Stefano, che stanno cominciando anche a togliere questa clausola, che non è ben vista giustamente anche dalle persone, dai clienti. È ritenuta vessatoria. Ed è anche una clausola che può essere anche rimossa nel momento in cui si va a stipulare un contratto di mutuo. Certo, fa parte di una trattativa della banca. La banca dirà: ma non lo utilizzerò mai. Allora il cliente dice: allora toglimela. E la banca poi dopo fa, diciamo, c'è un lungo tira e molla al termine del quale si può anche togliere. Ritorniamo alla lettura della documentazione e all'insistere con la banca a fornirci l'informativa precontrattuale, appunto, prima di stipulare un contratto. Ci rimane un minuto e mezzo. Roberto, voleva precisare ancora qualcosa su questo aspetto. Ti faccio anche una domanda di Michele, che chiede: ho una cessione del quinto, posso fare un mutuo prima casa? Dipende, insomma, dalle condizioni economiche in cui il vive. Il fatto di avere una cessione, che è un prestito personale o un'altra tipologia di finanziamento, ma addirittura anche un altro mutuo, non è di per sé un limite ad accedere a un altro tipo di finanziamento. Certo. Quello che ancora una volta la banca fa è verificare innanzitutto in questo caso anche la propria affidabilità dal punto di vista del rimborso, quindi se Michele ha sempre rimborsato puntualmente le rate sia di questo che di eventuali altri prestiti nel tempo, non avrà problemi, ma ovviamente poi la banca, nel valutare la rata di mutuo che può essere concessa, terrà conto anche della rata che Michele sta pagando per questo prestito. Se poi si trattasse ad esempio di una cessione che si deve estinguere in pochi anni, avrà sicuramente una valutazione più leggera rispetto a un impegno di più lungo periodo. E sulla Ius Variandi? No, sulla Ius Variandi dicevo soltanto che si deve tener conto, ma come diceva Max, che è una cosa messa anche un po' per tutela della banca, perché in un mutuo che dura 20 o 30 anni, a volte nel parlare dello Ius Variandi in contratto ci si riferisce a eventuali modifiche delle situazioni di mercato. Certo. Che potrebbe voler dire che tra 20 anni io ti faccio un mutuo che è indicizzato all'Euribor, ma tra 20 anni per chissà quale motivo l'Euribor magari non esiste scompare, più. Esattamente. Solo questo. Benissimo, vi ringrazio, ci risentiremo sicuramente presto. Grazie Maximiliano Cellini e Roberta Nedda. Soprattutto dobbiamo inseguire la moratoria per capire che fine fa, perché questo è un tema che ci sta molto a cuore. Noi invece di Salvadanaio ci sentiamo domani. Buona giornata a tutti.